Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto con noi Gianluca Codognato al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. E allora Gianluca, qua tocchiamo un tasto dolente, anche perché quando uno sente questa parola ti vengono i brividi sulla schiena. E la parola vuoi dire tu? La dico io. Equitalia, che uno dice, vabbè, cosa vuol dire? Italia equa, mi sembra anche una cosa buona, no? Poi non è tanto equa quando iniziano ad arrivarti queste raccomandate che mettono in crisi parecchie persone, anche perché poi quando ti arrivano i numeri non sono mai così bassi, e le richieste di denaro, insomma, credo che siano anche abbastanza importanti. Cosa è successo all'Adico negli ultimi tempi? Beh, pretesto appunto, come dicevi te, l'Italia ormai è sinonimo di incubo, no? Per tantissime persone, questo lo sappiamo noi, ma lo sanno tutti, insomma, al di là di questo abbiamo visto anche in campagna elettorale in questo momento che c'è chi propone addirittura di abolirla, fermo restando che poi insomma è un'azienda di riscossione crediti, la riscossione passerebbe sicuramente a qualcun altro. Detto questo, devo dire che siamo stati chiamati nel 2016 a un extra lavoro, Francesco, con Equitalia, per vari motivi, evidentemente anche perché siamo esposti, nel senso che stiamo veramente tutelando parecchie persone. Però nel 2016 devo dire che abbiamo raggiunto un record, perché abbiamo almeno due casi a settimana di persone che ci chiedono aiuto per situazioni di tutti i tipi, assolutamente. C'è anche chi deve quei soldi e c'è poco da fare se non chiedere rateizzazione, ma c'è anche chi non deve nulla, ma si è visto recapitare a casa, insomma, delle cartelle anche di un certo spessore. Tra l'altro, tramite voi avevo raccontato già alcune storie. Sì, mi ricordo quella della signora che aveva una tabaccheria e dopo 10 e più anni gli sono arrivate delle cartelle riferite ad anni precedenti. Dopo tanti anni, sì, 45 cartelle per 518.000 euro, una signora di 80 anni, quindi potete poi capire, insomma, e possono capire gli ascoltatori che tipo di sensazioni possa aver provato quella signora. Però voglio dire, ti posso raccontare del commerciante mestrino che abbiamo già raccontato in questo, alla tua trasmissione, che ha ricevuto ad Equitalia appunto una multa teoricamente per una infrazione commessa nel 2012 a Roma, quando lui non era mai stato a Roma e soprattutto l'auto l'aveva comprata nel 2014. Abbiamo tantissime segnalazioni in questo periodo di richieste da parte di Equitalia per bolli non pagati. In questo caso sono le regioni che si stanno scatenando in questo periodo, ovviamente, per fare cassa. Abbiamo veramente casi di tutti i tipi, persone che hanno preso la multa in autobus e hanno ricevuto la richiesta di pagamento da parte di Equitalia. Insomma, evidentemente questa società di riscossione è molto presente, però insomma, e anche a livello di metodi più volte è stata criticata, e forse da questo punto di vista è un po' migliorata, però oggettivamente ha delle metodologie che noi abbiamo e continuiamo a criticare, assolutamente. Ecco, quindi sono sempre di più le persone che si rivolgono a voi, all'Adico, mi dicevi un paio di casi a settimana, no? Sì, abbiamo almeno un paio di casi a settimana dal 2016, in questi primi 5 mesi del 2016. Un vero e proprio boom. Abbiamo contato che l'anno precedente abbiamo avuto lo stesso molti casi, una cinquantina, però una cinquantina in tutto l'anno. Adesso in questi primi 5 mesi ne abbiamo una quarantina, quindi capisci che sì, evidentemente stiamo anche lavorando bene su questo fronte. Adico sta lavorando bene, però insomma, voglio dire, sicuramente anche Equitalia, proprio per i motivi che ti dicevo prima, per esempio che la regione, le regioni, gli enti pubblici stanno spulciando anche per recuperare un po' di soldi, insomma Equitalia ci sembra abbastanza sulla cresta dell'onda ancora. E poi ci sono anche delle novità alle porte. Molto recentemente si è parlato della possibilità molto particolare, sì, che Equitalia addirittura, per riuscire a recuperare i soldi dai clienti contribuenti morosi, si vadano a chiederli ai clienti di questi contribuenti morosi. Non so se è chiaro, è un passaggio un po' particolare. Io devo dei soldi a Equitalia, però avanzo dei soldi da una terza persona, Equitalia va a chiedere i soldi a quella terza persona. È ancora tutto in fase di embrionale, però insomma diciamo si sta cercando un po' di tutto per riuscire poi a recuperare i soldi dai creditori. Certo che insomma anche questa mossa lascerebbe un po' perplessi. Sì, infatti un po' stravagante, diciamo così. Va bene, quindi voi continuate a fare il vostro lavoro, ci sono risposte magari un po' più attente e precise anche da parte di Equitalia? Sì, cioè, infatti diciamo come in seconda battuta, al di là dei dati, se noi veniamo contattati da più persone è perché anche abbiamo instaurato diciamo un rapporto cordiale, usiamo questo termine tra virgolette, con il fisco e anche con Equitalia. Per esempio, sempre come raccontato anche nella puntata, nella vostra trasmissione, con la signora che ha ricevuto 45 cartelle, siamo andati direttamente a parlare col direttore di Equitalia. Tra l'altro è andato a scoprire, come abbiamo già detto, che c'erano delle firme false sulle notifiche, firme sì, falsificate. Quindi siamo intervenuti anche direttamente con il commerciante veneziano che, al quale è stata chiesta appunto 1200 euro per una sanzione a Roma, quando lui a Roma non c'è mai stato, oltretutto l'auto l'ha comprata successivamente alla data della sanzione. Quindi insomma cerchiamo un dialogo, lo cerchiamo anche molto spesso nella richiesta di rateizzazione del debito. Per cui ecco, quello che diciamo noi è questo: se vi arriva una cartella di Equitalia, se questa cartella non vi è chiara, se vi risulta che non, in realtà voi non dobbiate pagare niente, non lasciate perdere, non pagate senza capire cosa sia successo. Sì. Rivolgetevi appunto all'associazione dei consumatori, rivolgetevi a chi è esperto in materia, perché veramente si riesce e si può anche dialogare anche con Equitalia. E allora ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, molto semplice, ci sono i contatti telefonici, chiamate per avere eventualmente lumi e dettagli su quello che vi sta capitando, magari l'Adico può darvi una mano in questo. Noi Gianluca ci risentiamo adesso la settimana prossima, perché lunedì l'appuntamento consueto con l'Adico non andrà in onda, lunedì a Padova è festa del Santo e quindi anche noi facciamo questa festa. Grazie a te Francesco e buone feste. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.